Buonasera a tutti quanti. Sono una piccola ragazza italiana e sono venuta qua da molto lontano, da voi in Giappone, per parlare con voi. I said I love you for forever and a day. And then you last kiss. Crashing down.